9 in punto, la versione di Oscar. Oscar Giannino torna a salutarvi, forse vi deve una spiegazioncina però su questo miagolio che avete sentito. In effetti io sono un gattofilo, sono sempre, da sempre un gatto adottivo in redazione, quindi il gatto è un pochino l'animale che mi contraddistingue, e insomma socievole ma pronto, come avete sentito, anche talvolta a tirare fuori le unghie. E si tratta di tirare fuori un po' le unghie anche col tema del giorno. Io vi ricordo che per telefonare il numero di telefono dove inoltrare le vostre domande è 800-240024, lo ripeto 800-240024, mentre i vostri sms potete mandarli al numero 349-238-6666. Fatelo perché vi farò molto parlare con gli ospiti. Allora, il tema del giorno, ve l'ho detto, è questa domanda un pochino angosciante per chi la pensa come me, almeno minoritario: ma che fine hanno fatto questi liberisti, questi convinti sostenitori del libero mercato, della concorrenza? Sembravano essersi affermati faticosamente un po' anche in Italia, ma soprattutto nel mondo, negli ultimi 2-3 decenni, dai tempi della Lady Thatcher, dai tempi di Reagan, e adesso ci si dice che invece la crisi finanziaria, la crisi dell'economia reale è tutta colpa loro, e si ritirano come un'armata in rotta, per così dire. Ecco, approfondiremo questo tema con alcuni ospiti che non si sentono molto spesso sui media italiani, e vado subito a presentarveli. Sono degli animatori, tra l'altro, di un sito che vi prego, se avete tempo e voglia, di seguire. Si chiama www.noisefromamerica.com, America col K, come quella di Cossiga.org, ed è un sito animato da italiani che hanno studiato all'estero, hanno preso un PhD nelle università americane, insegnano nelle università americane, e hanno questa visione che a me piace molto, a dire la verità, che in Italia di solito non ha molto ascolto. Ecco, passo a presentarvi alcuni degli animatori di questo sito che proprio in questi giorni, da oggi per i prossimi 2 giorni, animano 3 giorni di dibattito sui problemi dell'Italia da questo punto di vista, e questo confronto si tiene a Villa La Pietra a Firenze, animato appunto da Noise from America. Ecco i nostri ospiti di oggi. Ve li presento innanzitutto il professor Michele Boldrin. Buongiorno professor Boldrin. Buongiorno. E il professor Sandro Brusco. Buongiorno professor Brusco. Ecco, entrambi insegnano appunto negli States. Michele Boldrin insegna alla Washington University in St. Louis, e il professor Brusco insegna alla University of New York a Stony Brook, al Dipartimento di Economia. Ecco, fine delle mie chiacchiere. Professor Boldrin, se dovesse dire a chi ci ascolta il punto di vista di chi la pensa come voi, come lei, insomma, su questa crisi, e se essa davvero è colpa di un eccesso di pensiero e di prassi di liberismo nella finanza, lei da dove partirebbe? Nella difesa, per così dire. Nella difesa, ma più che la difesa direi che i fatti dimostrano che l'eccesso di pensiero liberista nella finanza non c'è stato. C'è stato un rovescio, c'è stato da un lato un interventismo statale, se vuole poi ne discutiamo, in molti aspetti del sistema bancario e finanziario, e una cattiva regolazione dei mercati bancari e finanziari, che li hanno trasformati in mercati poco trasparenti, poco competitivi, quindi l'opposto di quello che un liberista, fra virgolette, andrebbe cercando. Partirei da lì. Professor Brusco, mi ha molto colpito un libro che sto finendo di leggere proprio adesso, di Richard Posner. Richard Posner è un grande in realtà un giurista, ma insomma è un giudice, ecco, è un giudice dire la verità, ma insomma diciamo si è spesso occupato di temi che hanno a che fare con l'economia e il mercato, ed è anche di un punto di riferimento insomma nel dibattito americano. Il libro di Posner è sulla crisi, appunto, è abbastanza ponderoso, è un titolo che dice un fallimento del capitalismo, e unisce insieme nell'interpretare le ragioni di questa crisi gli errori di regolazione ma anche difetti intrinseci al modello non solo di regolazione da parte del politico, del regolatore monetario, del regolatore che esercitava la vigilanza sui mercati finanziari, ma anche intrinseci al modello finanziario dominante sul mercato americano. C'è un fallimento intrinseco della capacità di autoregolazione che è tanto cara ai liberisti. Richiamo questo volume perché in America mi sembra che ci sia un dibattito molto più acceso che da noi su questo. Da noi si dà per scontato, qua in Italia e in Europa, che sia il mercato ad avere fallito. Lei che dice? È una questione un pelino più complicata di come normalmente la pongono, nel senso che anche se Per esempio, la teoria economica standard, ci sono una serie di condizioni che fanno sì che un mercato concorrenziale raggiunga quello che con termine tecnico si chiama l'ottimo paretiano, quindi una situazione, diciamo così, buona per usare termini non tecnici. Alcune di queste condizioni tipicamente non sono soddisfatte nei mercati finanziari, ci sono problemi di selezione avversa, che significa la gente non conosce esattamente cosa compra, che cosa vende, c'è informazione privata sulla qualità delle securities che vengono comprate e vendute, che è la giustificazione standard per gli interventi di carattere regolatorio. Ora, la vera domanda è quindi, in un mercato finanziario di questo tipo, quanto liberismo si può permettere e quanta regolazione bisogna fare. Non è che il modello sia 0-1, non è che il modello sia o metti la banca nazionalizzata che fa solo quello che dicono i politici, oppure lasci il libero mercato in cui non c'è assolutamente nessun tipo di controllo riguardo alle operazioni che le varie istituzioni finanziarie possono fare. Quello che è successo, almeno da quel poco che si riesce a capire, perché non è che sempre si riesce a capire bene, è che ci sono state fatte delle operazioni abbastanza singolari, come non so, compagnie di assicurazione che diventavano trading company di derivatives e che prendevano rischi enormi con i soldi degli altri, poi alla fine. Come AIG, quella che fu salvata pochi giorni dopo invece il fallimento di Lehman Brothers. Quindi insomma, diciamo, la questione è complessa. Ma professor Boldrini, tornando, mettendosi un pochino dal punto di vista di chi sta in Italia, ecco, di chi affronta questo dibattito un po' singolare di questo paese in cui si parla poco di merito e in maniera approfondita e molto di ideologie contrapposte, per così dire, ecco, io so che il punto di vista italiano non vi è molto caro, per così dire, vi sembra un dibattito un po' ingessato da una parte e povero di riferimento. Ma qual è il punto di vista? Posso interromperla? Il punto di vista italiano, guardi, le dico questo, e chi ci ascolta molto spesso è convinto che il punto di vista del mercato, liberista, eccetera, sia quello che nella grande stampa italiana, per quei pochi milioni che la leggono, però il nostro tipo di pubblico ha a che vedere esattamente con questo cluster, ecco, è convinto che in buona sostanza i liberisti del nostro paese sono quelli che hanno scritto volumi come Il liberismo di sinistra, firmato da Giavazzi e Lesina, per capirci, cioè professori di grande rispetto, che io per primo stimo, eccetera, ma insomma nel mainstream del dibattito italiano quella è la posizione del mercatismo rispetto al quale la politica ha in atto una reazione, diciamo, da qualche tempo a questa parte, che si interpreta. Cioè, la posizione ufficiale è quella rappresentata per esempio sul giornale a cui credo la questa radio sia associata, dal figlio di del Presidente della Repubblica, un cui editoriale ho letto tempo fa. Per esempio, ecco, dal punto di vista della quelle cose lì sono sensate. Le chiedo, da questo punto di vista, quindi sforzandosi un secondo non di vedere la cosa dal dibattito americano come è vostra abitudine, ma dal punto di vista un po' più ristretto italiano, cerchiamo di intenderci. Quando in Italia si dice gli economisti liberisti non ci hanno saputo prevedere la crisi, come dice spesso Tramonti per esempio, e quando si dice e adesso vorrebbero anche spiegarci la ricetta, ecco, voi da quello che voi che state lì che impressione avete? È un dibattito un po' confuso, guarda, Carino, capiamoci francamente, a battute del genere uno risponde solo con battute, perché lui l'ha saputa prevedere? Quanti miliardi ha fatto prevedendo? Perché chi l'ha saputa prevedere, parecchi l'hanno fatto e sono diventati straricchi, c'è molta gente che l'ha prevista. Cioè, prevedere non è sufficiente dire ma arriverà, che arriverà l'hanno detto in molti, perfino io, tu dirai un giorno o l'altro questo finisce, è stato troppo successo, prevedere vuol dire prevedere, esattamente, non è quello il lavoro dell'economista, liberista o non liberista che sia, comunque dell'economista accademico, cercare di capirne i meccanismi. E le cure, mi sembra che siamo gli unici, adesso siamo, usato la prima persona plurale, gli economisti in genere che cercano di riflettere su queste cose, per esempio, che sono molto critici oggi della proposta di riforma del sistema regolatorio fatta da Obama, che ci sembra francamente una montagna che ha partorito il topolino, siamo molto critici di questo e stiamo cercando di avanzare delle proposte. Questa contrapposizione un po' artificiale, una cosa tutta inventata dal vostro ministro del tesoro, fra una specie di corporazione, lei dice il vostro, chiamata gli economisti da un lato, non so chi ci sia dall'altro, i non economisti, suppongo tutti, incluso il mio dentista. Ma professore, lei dice il vostro perché si sente oramai non italiano, questo è il punto. No, perché lei mi ha detto, esiste un punto di vista italiano, siccome questa maniera di stabilire il dibattito, capisce, non riesco a a trovarmi, cioè allora dico vostro, no, io mi sento, beh, mi sento certo molto cittadino del mondo, ho due passaporti, uno americano e uno italiano, ma mi sento ovviamente anche italiano, abbastanza, come vede, non solo perché lo parlo, sono qua con lei a discutere, sono a Firenze a fare un convegno organizzato da noi per discutere i problemi italiani, quindi certo mi sento anche italiano, quello non è il problema, era proprio che un punto di vista, questo che ha imposto nel dibattito italiano il ministro Tremonti e alcuni dei suoi associati, come questo signor Napolitano, qui non mi ricordo, ma insomma il figlio del presidente, che ha un punto di vista francamente provinciale, anche un po' sciocchino, intellettualmente povero, non è lì la questione. Allora, io la interrompo subito perché c'è un ascoltatore, Claudio da Prato, che credo che sia in linea, sentiamo qual è la sua osservazione. Prego, Claudio. Intanto Giannino, benvenuto a questa radio che fornisce un supporto intellettuale non indifferente. Grazie molto, prego. Il problema è diverso, cioè dal mio punto di vista io ho sempre giudicato il liberismo una utopia. In che senso? Nel senso che il liberismo va bene per i forti. È un po' il concetto del bullo che, essendo più forte, prende a ceffoni tutti, finché non trova un bullo più forte di lui che gli spacca la testa. E questo è il problema del liberismo. Parlare di liberismo in Italia è abbastanza assurdo, perché noi non abbiamo strutture così resistenti a una cazzottata, a un confronto duro, che ci possano mettere, come dire, in protezione rispetto agli altri. Il problema è tutto lì. In un certo senso il liberismo è come il nazismo: finché vincevano andava tutto bene, ma per rimanere sulla cresta dell'onda vincitori, qualsiasi teoria estrema come può essere questo liberismo esasperato ha bisogno di una cura talmente maniacale e un controllo talmente perfetto che ha dimostrato di non poter avere. Grazie Claudio. Io non sono per niente d'accordo con quello che ho detto, ma passo la palla immediatamente al professor Brusco. Io non sono d'accordo, lo dico subito, perché il liberismo non è affatto un'ideologia come il marxismo, dal mio punto di vista ovviamente, però la questione posta a Claudio è questa: l'Italia ha nella sua organizzazione e articolazione di forze produttive nei diversi ambiti in cui si articolano i suoi diversi mercati, delle caratteristiche tali da poter far attecchire e poter far dare risultati positivi alla teoria del libero mercato, o altrimenti siamo ancora un paese troppo soggetto a regolazione e quindi i liberisti sono un pochino degli utopisti? Ecco, lei che dice, professor Brusco, per come lei conosce ed è articolato il mercato italiano? Ma guardi Giannino, son due cose differenti, mi sembra. La questione se in Italia il liberismo sia possibile o sia utopico, purtroppo è già stata risposta, è utopico visto che nessuno l'ha mai realizzato, nessuno nemmeno prova a realizzarlo. La domanda perché poneva l'ascoltatore Claudio, però la questione che poneva l'ascoltatore Claudio, però invece secondo me è diversa e merita invece una risposta un pelino più articolata. Questa idea che il liberismo sia il paradiso dei ricchi e che sia il regno del forte contro il debole è una completa sciocchezza. E per capire perché è una completa sciocchezza basta pensare a che cos'è il contrario del liberismo. Il contrario del liberismo è dirigismo, è statalismo, è monopolio, è oligopolio, è cartello, è controllo di pochi su tutti. Questo è il regno del forte contro il debole, non il liberismo. Il liberismo significa che tu puoi intraprendere le attività economiche che preferisci senza dover chiedere permesso a un padrone o a un burocrate. Questo in Italia non si fa, non è mai stato applicato. L'Italia è il regno, abbiamo visto ultimamente uno degli intenti più antiliberisti, secondo me, che ci sono stati, è stato l'affare all'Italia. Siamo il paese degli ordini di tutti i tipi, delle licenze di tutti i tipi, siamo il paese dove il debole, il poveraccio che vuole mettere sulla sua bottega di barbiere, quello che ti vuole riparare le scarpe, qualunque cosa, deve chiedere un permesso a qualcuno che è più forte. È molto chiaro, professor Brusco, quindi qui non si tratta tanto di utopia o di poteri forti quanto di un sistema per consentire di sciogliere le mani e consentire di fare liberamente ciascuno di mettere meglio a frutto i propri talenti. Abbiamo un altro ascoltatore, questa volta quindi giriamo l'osservazione dello ascoltatore Bruno da Lucca e la giriamo poi al professor Boldrini. Prego Bruno. Sì, buongiorno. Senta, niente, volevo intervenire sull'argomento perché io sono convinto che il liberismo sia praticamente un filone intellettuale puro, diciamo di un orientamento cambiamento di vita, che in questo caso è dominato dal mercato, che non trova voce nel mondo odierno. Io sono stato e sono, continuo a essere un comunista convinto, sono una persona che ha dovuto sbattere tante porte nelle sezioni dove sono stato, perché il comunismo è che è originariamente una cosa che doveva avere un controllo dal basso, l'operaio diceva compagno ingegnere cosa hai fatto oggi, insomma queste cose qui non sono mai avvenute. E ugualmente nel liberismo non avviene, cioè nel senso non esiste da parte di questa categoria di persone intellettuali la possibilità di intervenire nel mercato, perché se ci fosse questa possibilità, cioè se queste persone fossero ascoltate dal mercato, sicuramente il mercato si saprebbe autoregolamentare, perché il liberismo ha dei fondamenti di autoregolamentazione dovuti proprio alla libera concorrenza. Ringrazio anche Bruno Da Luca e devo pregare naturalmente i nostri ascoltatori che telefonano di essere sintetici, non di perdersi in ragionamenti molto articolati. Professor Boldrin, ascolti pure, ma vedrà che i nostri ascoltatori, come vede, hanno un'idea, associano questa cosa liberismo-marxismo, liberismo-comunismo, grandi utopie eccetera, eccetera. Che dice? Ebbene, che così, anche perché cosa vuole, nel dibattito, non so come dire, popolare, così viene impostato. Io sono d'accordo con lei, Giannino. Questa parola liberismo un po' la odio, nel senso che è un metodo di analisi, per quanto mi riguarda, uno tratta di guardare le situazioni concrete e si chiede adesso questa come la risolvo, come la faccio funzionare meglio. La risposta a molti di questi quesiti è lasci che gli individui concorrano fra di loro. Nel campo economico questo è un po', in maniera di nuovo, da trasmissione radio di 9 mattina la ricetta. Il fatto dei poteri forti, l'associazione di questa cosa con il grande capitale, i ricchi contro i poveri, cosa vuole? È un po' da un lato una struttura italiana. In Italia, non avendo mai avuto dei mercati molto competitivi, una grande classe media imprenditoriale forte che dominava, ma avendo sempre avuto queste dicotomie dallo Stato da un lato, anzi tricotomie, perché in Italia c'è anche la Chiesa, ma lasciamo stare, non facciamo gli anticlericali per oggi, lo Stato e i suoi poteri molto forti, il forte intervento da un lato, il grande capitale monopolistico molto in famiglia e molto amico fra l'uno e l'altro, dall'altro, questa è l'interpretazione che la gente ha, le politiche liberiste coincidono con quegli interessi degli agnelli, tanto per capirla. L'idea che uno come Sandro e me, per esempio entrambi di estrazione sociale piuttosto umile, abbiamo potuto salvarci la vita andando in un posto dove invece di chiedersi di portare borse all'università per fare la carriera, ci hanno semplicemente detto lavorate, appunto fate i liberisti, competete, se riuscite a fare meglio degli altri vi daremo, non c'era un capo che ci ha dato, questo sistema vi darà un posto di lavoro, eccetera eccetera, la gente non ce l'ha, però vede, a noi è successo così, quel liberismo che a noi, a centinaia, a migliaia di altri, proprio di oggi la nuova fuga dall'Italia, un'altra scienziata, ci ha salvato la vita, è concorrenza, è la possibilità, è un'organizzazione di mercato, in questo caso il mercato della ricerca accademica, che permette ai singoli individui di competere, di fare il loro meglio e di ricevere dei, mi viene la parola reward, mi aiuti lei con l'italiano. comunque è molto chiaro, dal punto di vista suo, professor Brusco, 30 secondi. A quello che riescono a fare, questa è la cosa che in Italia, ma c'è un meccanismo di responsabilità individuale, di merito e di poter dire ho fatto un po' meglio di te, o tu hai fatto un po' meglio di me e io sono arrivato secondo, amen. Professor Brusco, io la devo invitare a riprendere esattamente questo ragionamento che secondo me inizia a entrare nel vivo della questione, perché ci dobbiamo occupare un pochino di più di questioni italiane. Il liberismo come strumento, diciamo, che libera talenti, energie e come concreta strada per far funzionare meglio l'ascensore sociale. L'ascensore sociale è il nostro paese, tra quelli OCSE, è quello dove funziona meno. Ecco qui, il gatto è tornato a graffiare e con il professor Brusco io direi di iniziare un secondo ad affrontare almeno alcuni dei temi sui quali in questi giorni avviate il confronto a Firenze tra voi, ma anche idealmente, insomma, tentando di parlare, insomma, un numero maggiore di italiani rispetto a quelli che seguono il vostro blog. Noi from America, e quindi questo cenacolo, questo vostro forum, si occupa molto di meccanismi della formazione nel nostro paese, dei problemi della riforma dell'istruzione, della scuola media superiore, dell'università. E inizio da questo proprio perché mi sembrava che Boldrin, alla fine del suo intervento precedente, ponesse al centro una questione che per me è fondamentale per capire chi davvero crede di più nell'individuo, nel libero gioco dei talenti, nel confronto libero tra talenti. E quindi il problema della formazione, dei meccanismi della formazione della scuola, dell'università, da questo punto di vista è importante. Professor Brusco, se dovesse dire in sintesi rispetto al dibattito in corso in Italia, che tipo di riforme, l'onda, gli studenti che protestano, sembra sempre che ci sia vicino dietro l'angolo chissà quale riforma, e poi insomma si muove così poco di solito nell'ambito del sistema della formazione italiana, dovesse dire dal suo punto di vista, dal suo osservatorio americano, che cos'è che davvero poi ha consentito a voi che state lì e insegnate lì di realizzare meglio la soddisfazione del vostro talento rispetto al sistema che avete lasciato in Italia, lei che direbbe, professor Brusco? Concorrenza. Ecco. Passo la parola. Non c'è nient'altro di veramente, che funzioni veramente. Ma perché allora, stando di là, di solito a resistere contro meccanismi più concorrenziali, sono anche i docenti nel nostro paese, dal suo punto di vista? Chi deve altro essere che resiste? Sono tutti quelli che acchiappano le rendite che resistono. È abbastanza naturale che se nei docenti poi non esiste. E in teoria quindi però l'interesse degli studenti non dovrebbe essere quello di appoggiare il titolare di rendita, professore di un meccanismo non concorrenziale nella chiamata in cattedra, corretto? Corretto, però il problema è che in Italia allora, due cose. Primo, veramente non so quanti siano gli studenti che si interessino attivamente delle riforme universitarie che partecipano a questi movimenti. Magari sono tanti, magari sono pochi, non lo so, non è facile giudicare, e si tenta a giudicare dal chi è più rumoroso, che poi sia maggioranza o minoranza, io non lo so. L'altra cosa è che l'impressione che io, guarda Giannino, mi occupo veramente molto poco di questa cosa perché... un po' per esasperazione, nel senso che da quando ho iniziato l'università come studente in Italia, che sento parlare di riforme, che sento parlare di miglioramenti, onestamente sono un po' stufo, quindi non è che non sto più dietro a tutte le ultime invenzioni dell'ultimo ministro che arriva. Però l'impressione che si ha è che si mischiano sempre tentativi di riforma che sono sostanzialmente marginali, perché non incidono sul nodo vero, che è quello della concorrenza tra università, con tentativi più o meno di risparmio delle spese. Ora, che chi è nell'università adesso, studenti e docenti, si metta a protestare perché gli tagliano il numero dei professori, cercano di tagliare le spese, è ovvio e sacrosanto, ma francamente non richiede nessuna spiegazione. Certamente. Perché non protestino anche per avere meccanismi realmente competitivi nell'assegnazione delle cattedre e cose del genere, questo non lo so, però credo che sia parte del problema generale dell'Italia, che la concorrenza e la libertà di iniziativa vengono visti come una minaccia verso il debole. Ecco, la minaccia verso il debole. A questo proposito vediamo un pochino anche chi ci ascolta. Noi abbiamo Fausto da Livorno. Prego Fausto, che pensa lei? Nino, un piacere sentirla. Volevo fare il mio... Pronto? Sì, dica. Sì, volevo fare il mio intervento. Io diciamo, chiaramente credo che il liberismo sia forse la soluzione migliore, comunque l'economia capitalistica la migliore trovata da quando c'è l'uomo praticamente. Però ecco, sono più per una forma di economia sociale di mercato, nel senso un po' della corrente di Michael Novak, per capirsi. No, però attenzione, lei dice Michael Novak, quindi io intendo che insomma lei si abbevera a fonti anche abbastanza alte. Economia sociale di mercato nel nostro paese, nel dibattito diciamo a un livello più boss da bar, è la formula che usa appunto Tremonti per dire insomma i mercatisti cattivi. Ecco, ci faccia capire, lei dice Michael Novak, quindi la versione alta che concilia anche la dottrina sociale della Chiesa con gli istituti fondamentali del mercato, o in versione Tremonti che dice mercatisti per favore fuori dal tempio? Beh no, diciamo che è un po' troppo estrema la visione di Tremonti, anche No. Allora, molto chiaro. Io però approfitto del suo intervento che giro immediatamente al professor Boldrin, perché vede che ci restituisce sempre questo dibattito un pochino da bar, mi consenta questo giudizio, per capirci, popolare italiano. Quindi abbiamo un ascoltatore che contemporaneamente dice economia sociale di mercato e ha ben presente che questa formula ha una storia culturale alta, penso a figure come Oymack, che non so quanti anche nelle università italiane studino. Poi però nella traduzione italiana l'economia sociale di mercato diventa mercatisti cattivi. Lei sa, professor Boldrin, che in Italia mercatismo è diventato una cosa quasi una messa al bando, ecco, una cacciata dal tempio della presentabilità pubblica. Ne sono presenta come. Infatti, io vorrei rispondere a questo. Io davvero mi sono un po'. Non me la voglio prendere con l'ascoltatore, ma con questa maniera di impostare il problema, appunto, a ismi, a teorie generali. Vogliamo fare un esempio concreto. Qualcuno mi può dire oggi in Italia quale mercato, quale attività produttiva, quale cosa abbia bisogno di un po' di più di regolazione statale perché va male a causa del mercato? Capisce? Cioè, io vorrei parlare di questo, parliamo di cose concrete. Cosa? Per esempio, questo recente episodio cardia-consob, scandaloso di nuovo, no, in cui di fatto abbiamo tutto un giochetto per fare un favore alla lobby degli editori, che già sussidiati sono, eccetera, eccetera. Lì, qualcuno mi può dire in che senso il mercatismo ha fatto danno, abbiamo bisogno dell'economia sociale di mercato o quello che volete voi, l'ismo di vostra scelta, qualcuno me lo deve spiegare. Io ricordo a chi ci ascolta, la interrompo solo per questo perché magari chi ci ascolta non ha ben chiaro il riferimento che lei ha fatto, nel Consiglio dei Ministri che ha varato la manovra di sostegno all'economia venerdì è avvenuto anche che il Consiglio dei Ministri abbia respinto le dimissioni presentate nelle sue mani dal Presidente della Consob Cardia. Queste dimissioni Cardia le ha presentate perché? Perché in applicazione di una direttiva europea sulla trasparenza del mercato la Consob aveva, ricependo la direttiva europea, fatto proprio l'indirizzo per il quale nelle comunicazioni obbligate dovute al mercato le società quotate possono usare internet fonte aperta e non sono più obbligate a passare per la carta stampata. Questo significa naturalmente per i direttori circa 50 milioni l'anno di annunci obbligatori che venivano meno. A quel punto il Parlamento all'unanimità ha abbracciato la ragione degli editori e ha detto no, cara Consob, bisogna andare sui giornali per forza. Il presidente della Consob torna nel collegio, ma i componenti del collegio della Consob dicono no, noi abbiamo deliberato e non battiamo i piedi, i tacchi al Parlamento. Per questo, con un precedente secondo me molto grave, il presidente della Consob ha deciso di dimettersi nelle mani del governo, il quale ha respinto queste dimissioni dicendo ma noi apprezziamo molto che tu ti pieghi alla politica. Professor Voldrin, secondo lei quando vuole in un paese... spiegare qui cosa sta facendo di buono la politica allo Stato? Che rivincita è e su che cosa? Se non puramente un balletto, un gioco delle parti, poi ci sono state le telefonate sotto in cui un'autorità che dovrebbe essere indipendente dice alla politica sì, intrudi, ti comanda dove non dovresti per favorire un gruppo piccolo poi di guarda caso potenti, perché lo sta favorendo gli editori, sia chiaro, non credo stia favorendo lei Giannino che fa il giornalista o no, gli editori, sta certo favorendo una concentrazione relativamente piccola italiana di signori che pubblicano i giornali. Qualcuno mi deve spiegare in che senso questa rivincita della politica fa bene al cittadino medio, al lavoratore, al paese, a quello che volete voi. Però vede, professor Boldrini, da noi sono oramai i presidenti stessi delle autorità indipendenti che in teoria dovrebbero presidiare il funzionamento dei mercati ponendo un argine, per così dire, dagli eccessi della politica. In Italia sono essi per primi a dire, penso per esempio al presidente dell'antitrust quando si tratta di fare l'intervento CAI all'Italia, e lui è il primo che dice ma facciamo eccezioni alla regola della concorrenza, innalziamo la quota di controllo del mercato interno con la nuova compagnia. Lei capisce che quando sono i presidenti delle autorità che in teoria dovrebbero difendere la concorrenza, esistono per fare concorrenza indipendentemente dalla politica, dire alla politica per carità la politica si riprenda uno spazio è un po' difficile. Perché secondo lei questa anomalia è un'anomalia che ci accomuna a un'ondata che c'è in tutti i paesi avanzati adesso o è una caratteristica italiana? Le due cose, è una caratteristica fondamentalmente però italiana. Guardi, io le dirò, io ho eletto, non si offenderà, questa non è una forma di disprezzo, però ho eletto come mio paese europeo la Spagna, dove in realtà ho una vita pubblica molto più attiva che in Italia, sto a lavoro, quando vengo in Europa me ne sto in Spagna, sono appena arrivato ieri da Madrid. Per carità, il dibattito in Spagna oggi non è molto distinto a quello italiano, ma è tre spanne più in su e soprattutto questa retorica confusione in cui quelli che in Italia hanno chiamato i poteri forti, che sono fondamentalmente lobby, gruppi di interesse invischiati nei gangli dello Stato, spacciano i loro interessi di bottega come interessi nazionali e difesa di non si sa bene che cosa, contro il cattivo mercato, suppongo la perfida Albione, non c'è, questo retaggio fascista, mi dispiace fascista, io lo vado scrivendo da tempo, nella cultura italiana, nella cultura sia delle classi dirigenti, anche del popolo, della gente minuta, di chi si interessa forse meno di noi, c'è, rimane, e questo distingue l'Italia nel panorama europeo. Che ci sia oggi un dibattito sui fallimenti del mercato, sui fallimenti di certi meccanismi competitivi nel settore finanziario e bancario, non c'è dubbio alcuno. L'idea assurda che che ci siano questi cattivi plutocrati giudaici che da qualche parte tirano le fila mercato. Oscuramente di tutto questo, in effetti. Vediamo un po' se anche gli ultimi due ascoltatori a cui che facciamo intervenire e poi continuiamo con i nostri ospiti confermano questa impressione di dibattito un po' chiuso, insomma, diciamo, di cui ci racconta Boldrino, oppure no. Michele da Monza. Sì, buongiorno. Buongiorno Michele, prego. Senta, sto ascoltando il dibattito che è molto interessante. Mi sembra ancora strano che non ci siano mandati di cattura contro chi voglia praticare il liberismo qua in Italia, che comunque se fosse applicato come etica di mercato, di pensiero e di vita, sicuramente sarebbe un terremoto. Ma voi vi immaginate quest'Italia corporativa medioevale in cui ancora prevalgono le famiglie economiche, dove qualsiasi iniziativa di mercato viene smorzata, messa al bando, a cominciare dalle banche? Se qualcuno di talento che ha delle idee si potesse o avesse la possibilità di mettersi sul mercato e avere le possibilità di libero mercato, rischiando sulla propria pelle, è impossibile. Dalla politica alle banche, all'economia, qui è tutto a livello medievale. Figuriamoci se c'è un dibattito sul liberismo, sarebbe come parlare di terrorismo. Grazie Michele, io ricordo che tra le misure varate nel decreto di venerdì scorso c'è quella per il quale se Oscar Giannino paga regolarmente le tasse, come fa naturalmente con la sua partita IVA, la sua microimpresa, e poi sui redditi sui quali, ripeto, ha pagato regolarmente le tasse, li costituisce in un paese collocato in una lista secondo la quale per l'ordinamento italiano quello è un cosiddetto paradiso fiscale, pur avendoci pagato le tasse, dal decreto in vigore venerdì quella somma liberamente posta in un ordinamento estero viene considerato automaticamente strumento di reato. Vi faccio riflettere su questo, perché ripeto, somma su cui viene pagata l'imposta dovuta, comunque viene considerato strumento di reato. Io sono un pochino colpito dal fatto che, devo ammetterlo, il ministro in carica dell'economia assuma una svolta di questo tipo, anche perché mi ricordo che lui scrisse dei libri invece anni fa, La fiera delle tasse, in cui si sosteneva che la libera concorrenza tra ordinamenti fiscali fosse una inevitabile prospettiva ai quali gli stati dovevano piegarsi. Abbiamo ancora un ascoltatore, Salvatore da Bologna. Ah, salve. Salve, prego, dica. Senta, tornando agli Stati Uniti, mi sembra che l'unica salvezza per gli Stati Uniti sia rimasto il libero mercato, perché ormai anche lì è stato tutto preso dalla grossa piovra del governo federale. Adesso cioè lei è un anti-obamiano, mi pare di capire. Ah, sicuro. Vedo che praticamente adesso stanno passando il cap and trade bill, è stato passato il cap and trade bill senza essere stato neanche letto dai membri del congresso. No, attenzione, non è stato approvato, e per il momento alla Camera sì, poi bisogna vedere al Senato. Quindi il cap and trade bill è diciamo la formula tecnica, lo dico per chi ci ascolta, attraverso la quale viene identificato il nuovo pacchetto in materia di economia ambientale, è la svolta verde a cui Obama preme molto. E un ascoltatore quindi che ci richiama un tema, ma non è che l'America per prima ci sta dando questo esempio di nuovo colossale ritorno all'intervento pubblico, con un eccesso di intervento pubblico anche in materia in cui forse dare una risposta alla crisi e tornare a far funzionare l'intermediazione finanziaria è un conto, ma far prescrivere allo Stato a quante miglia all'ora bisogna fare i motori e quanta benzina consumino, insomma, è un altro paio di manico. Lei, professor Brusco, che dice? Stando in America, quanto è forte il consenso invece a questa svolta così statalista, insomma, anche di Obama, e quanto forte è la critica nel dibattito americano? Mi faccio distinguere due cose. Il cap and trade bill non è che l'abbia studiato molto bene, però l'idea di fondo è che in mercati in cui si producono esternalità, come il caso della produzione di energia con l'inquinamento, in principio lo Stato interviene per limitare le esternalità negative. Questo è un vecchissimo concetto della teoria economica, va all'inizio del secolo. Tra tutte le cose, di nuovo, non ho studiato bene il cap and trade bill, però almeno l'idea fondamentale che ci sta dietro, che è quella di dire ti do il permesso, vendo il permesso di inquinare, un'idea sostanzialmente liberista, nel senso che diciamo, lasciamoci, una volta che abbiamo deciso come società che possiamo assorbire tot CO2, facciamolo produrre, facciamo usare questo CO2 a chi lo paga di più. Quindi non, da questo punto di vista non mi sembra che quel particolare intervento denoti un eccesso di statalismo, di nuovo senza aversi dati i dettagli della legge. C'è sicuramente un'espansione della spesa pubblica, non particolarmente di Obama, devo dire. Tanta gente si scorda che questo termine stimulus era già stato usato 2-3 volte anche da Bush, non è questa idea di cercare di risolvere... Professor Brusco, la interrompo un secondo. Eccoci tornati qua in studio. Io avevo interrotto il professor Brusco perché aveva toccato un punto che a me sembra molto rilevante. Diceva: in realtà non è Obama che fa esplodere il deficit americano. Io ricordo che le proiezioni sono di un debito pubblico americano che dal 41% del GDP del PIL americano, dove lo aveva lasciato il presidente Bush, con tutte le misure necessarie per ridare fiducia all'intermediazione finanziaria, intervenire nelle banche e poi per il sostegno della domanda dell'offerta nell'economia reale, la stima è che questo debito pubblico americano passi dal 41 all'81-82% del PIL nell'arco delle due amministrazioni ipotetiche, quella attuale e quella futura, e quindi insomma più che raddoppiando. Però, diceva il professor Brusco, prego, non è tanto Obama da incolpare di questo. No, non so se da incolpare o che cosa, quello che dico è che la tentazione di usare almeno il deficit, se non la spesa pubblica, per uscire da secche recessive, è una cosa che francamente ha iniziato a fare Bush nel 2001, da subito. Alcune cose lui le chiama sussidi, altre le chiamano tagli fiscali, però poi alla fine non è che il risultato sia tanto differente. Ora, è evidente che c'è stato adesso un aumento enorme della spesa pubblica e che c'è un rischio di italianizzazione dell'America da questo punto di vista, se vogliamo metterla così. Però c'è una differenza che secondo me continua a restare tra l'America e l'Italia. La spesa pubblica, almeno il tipo, vedremo insomma, tra un paio d'anni forse, esattamente cosa implicano gli interventi di Obama in termini di cambiamenti permanenti nella struttura della spesa pubblica americana, perché è ovvio che in questo momento è difficile stabilire quanto ci sia di permanente e quanto ci sia di transitorio. Però tanto per dire, a nessuno è venuto in mente in America di monopolizzare la tratta aerea New York-Washington, che io sappia. Cioè, la mentalità per cui comunque si cerca di far funzionare il mercato dove questo può ragionevolmente funzionare e che l'intervento dello Stato deve essere giustificato da un qualche tipo di fallimento del mercato, sia esso per ragioni di asimmetria informativa o sia esso per ragioni di esternalità negativa. Questo punto fondamentale mi sembra che resti. Poi ci può essere uno slittamento in termini pratici, in termini empirici di quello che la gente considera più o meno ragionevole. Però almeno l'idea di fondo è rimasta e questa idea di fondo che a me sembra manchi totalmente in Italia. In Italia si pensa che ci sono delle cose in cui semplicemente lo Stato fa meglio dei privati e non c'è nessuna ragione, cioè non c'è nessun problema nello spiegare perché mai dovrebbe essere così. E la cosa singolare è che questa assunzione di fondo è smentita dai fatti pluridecennali, dall'esperienza concreta che si ha non solo come studioso in Italia ma anche come cittadini e contribuenti, ciò malgrado il luogo comune resta. Allora la domanda che io faccio a entrambi, ci avviamo un po' alla conclusione, la faccio per prima al professor Boldrini: poiché esiste questa forza così resiliente, come dice il ministro Tremonti, questa cosa di adottare anche aggettivi che in italiano non esistono mi fa molto sorridere. Allora, c'è questa forza resiliente degli argomenti filostatalisti che oggi si innestano anche nella volontà di dire: ma insomma, cari liberisti, la vostra epoca è finita nei grandi paesi anglosassoni, figuriamoci in Italia. Perché non vi induce un pochino allora anche a tentare di influenzare di più questo dibattito italiano. Insomma, non è che voi che insegnate in America state nella culla dove il mercato ha più forza storicamente e per questo trascurate un po' i vostri doveri nei confronti di questo paese? O è semplicemente una maniera per dire che questo paese la prospettiva di dare all'individuo, alla concorrenza, al talento non ce l'ha più dal vostro punto di vista? Lei che dice, Boldrin? Guardi Gianni, precipitevolissimevolmente. Mia moglie si arrabbia già per quello che faccio, perché da buona liberista, non teorica ma pratica, come dire, fisiologica, che la vivo sulla pelle, dice: ma insomma, che si arrangino, no? Non è un mondo di liberi, tu perché? Cioè, perché tu perdi il tempo? Quindi no, questa la respingo al mittente, ma molto amichevolmente. Gente come Sandro e io a volte mi domando perché facciamo i blog, perché sono qua stamattina invece di dormire mezz'ora in più a discutere con lei, che è anche un piacere, forse per quella la ragione. Noi ci proviamo, ma i meccanismi attraverso cui, di nuovo, che arriviamo alla concorrenza, al liberismo, si riesce a fare dibattito politico-economico serio in Italia, si arriva sugli organi di informazione, eccetera, eccetera, lei sa quali sono. Gente come noi che fondamentalmente ha fatto ricerca, che ha anche scelto poi di stare in posti dove che in Italia forse non conoscete nemmeno, per quanto siano ottimi posti lì, questa possibilità, e che ha deciso soprattutto di non appartenere a nessuna combricola. Ma qui non sto facendo l'apologia di Sandro e me, ce ne sono decine, guardi, facciamo parte entrambi di ben due organizzazioni, di due network di scienziati italiani in America, ISNAF, che raccoglie soprattutto scienziati delle scienze naturali, e NISA, che raccoglie soprattutto scienziati delle scienze umane. Noi economisti, essendo dei bastardi, riusciamo a stare in tutte e due per questa volta. Gente prestigiosissima, la cui visibilità, premi Nobel, direttori di grandi centri di ricerca, di scuole di ingegneria, cioè una varietà di talenti italiani impressionante. Abbiamo pochissimo accesso alla stampa, all'informazione italiana. Io credo che siamo grati per averci dato l'occasione stamattina. Non è per caso, perché siamo delle voci discordanti, specialmente perché, essendo poi delle persone che da un po' di tempo sono fuori dalla baruffa chiocciotta italiana delle due parti. Guarda, io faccio molta fatica a schierarmi con uno o con l'altro, li vedo entrambi come dannosi, e quindi non servo a una delle due parti, quindi nessuno tende a dare accesso, se parlo in prima persona, a una persona come me. Ma per carità, io faccio la mia parte. Nel blog l'abbiamo fatto un po' per questo, blog l'abbiamo fatto perché continuavamo a seguire dopo 20 anni di partenza. Io sono nato nell'83, Sandro, se non ricordo male, nell'88-89 dall'Italia, quindi io sono 26 anni da fuori, continuavo a seguire la politica di dibattito con l'Italia con una certa passione proprio perché mi interessava. E dopo siamo detto: facciamoci sto blog fra di noi per chiacchierare, per chiarirci le idee. Va bene, io devo ringraziare il professor Boldrin e il professor Brusco, e però devo anche lanciare l'appello di chi in questo paese si batte nell'informazione, perché il punto di vista così minoritario del mercato, dell'individuo, del talento, della minore intrusività della politica, continui a essere un po' meno debole. Quindi continuate anche a occuparvi di cose italiane, non state solo nelle prestigiose università americane, anche se io stesso tante volte mi chiedo se non ho sbagliato a restare in America, a dirvi la verità. Bene, per oggi abbiamo esaurito il nostro tempo, questo mio primo incontro con voi. Non mi resta quindi che, dopo aver ringraziato il mio braccio destro a cui dovrò tutto e che non sarà responsabile dei miei errori, Gloria Guerrera, dopo aver ringraziato Peter Bescapè in regia, darvi appuntamento per domani alle 9 in punto. Domani.